Credo che si possa dare immediatamente avvio ai lavori perché siamo già un po' in ritardo con la prima relazione. Credo che convenga ascoltare le due prime relazioni, poi ci sarà un piccolo intervallo, la terza relazione e finalmente la discussione. Ho sentito stamattina e credo che sia confermato che il professor Gianotto è rinviato a domani, certo, sì. Anche se il titolo era molto promettente, ma per esigenze organizzative c'è stato questo slittamento. Quindi darei senz'altro la parola al professor Falsini dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Il titolo della relazione è la recente traduzione in lingua italiana dei testi liturgici. Nello spazio di un decennio, dal 1963 al 1973, si è verificato in Italia un fatto di portata incalcolabile, a cui nessuno avrebbe mai osato pensare e che non ha riscontro nella storia della nostra Chiesa: il passaggio totale dico, dalla lingua latina alla lingua italiana nella celebrazione della Messa e qualche anno dopo in tutte le celebrazioni liturgiche, sacramenti, sacramentali, liturgia delle ore, eccetera. Ma l'episodio italiano, al quale riservo l'attenzione con particolare riferimento ai testi liturgici del Messale, quindi è una scelta ben determinata, si inserisce in un quadro che abbraccia tutte le lingue nelle quali la Chiesa Cattolica celebra il suo mistero di fede. Nel 1979, a 15 anni dalla riforma conciliare, si contavano ben 343 unità linguistiche riconosciute ed approvate dalla sede apostolica. Un fenomeno quindi di vastissime proporzioni, che ha interessato e coinvolto l'intero popolo cristiano e che va perciò al di là di ogni questione di tipo linguistico, culturale o semplicemente religioso. Un movimento che si avvicina ad una vera e propria rivoluzione, sia pure controllata, anzi guidata, sviluppatasi quasi improvvisamente e in forma rapidissima, sotto l'incalzare di forti pressioni provenienti dal basso, ovvero di esigenze spirituali, pastorali. Non per questo totalmente conclusa, perché aperta, come diremo, a ulteriori sviluppi. Dovendo contenere e la prospettiva e l'analisi alla situazione della Chiesa italiana, che ripeto non si distacca minimamente dal fenomeno verificatosi nella Chiesa Cattolica a partire dal Concilio, e per quanto riguarda la nostra area delle Chiese d'Europa, delle lingue d'Europa, prenderò in esame il libro classico della liturgia, anche perché raccoglie per la varietà dei suoi testi tutti i problemi inerenti ad una traduzione liturgica, cioè il Messale con l'annesso lezionario. E però ho dovuto fare una scelta, come dicevo anche ai responsabili. Anziché un'analisi puntigliosa, ovvero una campionatura dei problemi e delle soluzioni delle rispettive traduzioni, procedo lungo questi tre momenti di sviluppo. Prima il fatto, cioè la decisione del Concilio Vaticano II nel dicembre 1963, con la Costituzione Sacrosanctum Concilium, di dare maggior spazio alla lingua volgare, così è chiamata, nella liturgia, rilevandone la rapida applicazione ed estensione all'intera azione rituale e in particolare rilevando anche, sottolineando la novità dell'operazione. E poi passerò al modo, cioè alla peculiarità e alla complessità della versione dei testi liturgici, con la cronistoria del cammino compiuto e i criteri seguiti dall'operazione italiana. E infine una valutazione, ovvero circa i lavori compiuti, i criteri, il lavoro compiuto e le prospettive che si affacciano. Quindi è un quadro, direi, piuttosto generale, dove si inserisce anche l'analisi di questo del libro a scelta del Messale. La proposta di concedere la lingua, nella lingua latina l'uso della lingua volgare o vernacola è il termine preferito rispetto al linguaggio, rispetto a quello di lingua parlata o lingua viva o lingua nazionale, non sto a spiegare il perché, giunse al Concilio in un clima piuttosto teso e fu formulato nell'articolo 24, diventato poi 36, della Sacrosantum Concilium in un modo piuttosto vago, come effettiva possibilità, con il rimando ad ulteriori determinazioni nei successivi capitoli concernenti le varie celebrazioni liturgiche. L'articolo 24 prevedeva, e quello poi si ritrova anche nell'attuale articolo 36, in linea di principio, nel primo paragrafo, il mantenimento della lingua latina nella liturgia occidentale, o nei riti latini, primo paragrafo. Secondo, un più ampio uso per riconosciuta utilità verso il popolo cristiano della lingua volgare, soprattutto, virgolette, nelle letture, nelle munizioni, alcune orazioni e canti. Fine, terzo paragrafo, si demanda agli episcopati locali la determinazione dei limiti e delle modalità, con la conferma degli atti dalla parte della sede apostolica. Questo articolo raccoglieva il voto di vari episcopati nella fase preparatoria del concilio, come del resto anche nell'ultimo decennio e in particolare come aveva sollecitato il movimento liturgico espresso nel congresso internazionale di liturgia svoltosi ad Assisi nel 1956, ove l'intervento del padre Jungmann sulla proposta di passare dal latino all'italiano, come la Chiesa apostolica aveva abbandonato lo Stato pontificio, aveva acquistato piena libertà, che suscitò naturalmente questa sua proposta un applauso interminabile. Si concluse però il congresso con queste parole di Pio XII, che raffreddarono tutte le aspettative. La Chiesa, queste sono le parole autentiche di Pio XII il 22 settembre del 1956, la Chiesa ha varie ragioni per conservare fermamente nel rito latino l'obbligo incondizionato per il sacerdote celebrante di usare la lingua latina. E nella Mediator Dei aveva scritto che la lingua latina era un chiaro e nobile segno di unità. Sull'articolo 24, la discussione dei padri conciliari, apertasi il 22 ottobre 62, fu una delle più accese, come dimostra l'elevato numero di ben 81 interventi, con diversità di opinioni e di emendamenti in maggioranza favorevoli. Il clima fu stemperato dal ritocco del testo dove si diceva tribui debet in tribui potest, rimanendo però intatta lo schema che ho accennato. I successivi numeri relativi poi alla messa, ai sacramenti, eccetera, specialmente per il canone romano, cioè per la preghiera riservata, recitata dal sacerdote per le forme sacramentali, riacutizzarono la discussione conciliare. Ma nei vari casi però fu registrato, l'ostacolo fu raggirato da causa dei cosiddetti modi o richieste di ritocchi da parte dei padri conciliari. La divergenza o il contrasto fra le varie proposte condusse ad una formulazione piuttosto vaga, che però aprì, come è detto poi, come un grimaldello aprì queste serrature bloccate da tanti secoli. A proposito, mi interessa qui, della traduzione del canone romano in lingua italiana, a cui nessuno pensava, e nonostante la richiesta di 22 padri perché fosse esplicitamente escluso, il relatore, rispondendo ai padri, osservava: non sembra opportuno che dal concilio si escluda formalmente ciò che in casi particolari dalla sede apostolica può essere concesso come è già stato concesso. Quindi il concilio, lascio alcuni particolari, dava via libera all'ingresso della lingua volgare nella liturgia con partecipazione di popolo, senza alcun limite predeterminato, anche se tutto veniva sottoposto alle decisioni episcopali e alla conferma della sede apostolica. L'introduzione della lingua volgare nella liturgia, ovvero il passaggio dal latino alla lingua volgare nel nostro caso italiana, è avvenuto, dicevamo, in modo rapido, in meno di un decennio e in forma totale. Non è rimasto nemmeno un testo latino, ma in forma graduale, a tappe, sotto la vigile guida degli organismi romani, in particolare del Consilium, che era l'organismo incaricato per l'attuazione della riforma, e con il benestare di Paolo VI, e per espliciti interventi decisionali dell'Episcopato italiano, sia direttamente sia a mezzo della Commissione Episcopale di Liturgia. Quindi non c'è stato nessun colpo di mano. E in breve sono queste le tappe che forse non conviene specificare in modo troppo particolareggiato. Però già nel 25 di gennaio del 64, la Costituzione fu approvata il 4 dicembre del 63, e un documento di Paolo VI disponeva l'attuazione della Costituzione conciliare, compreso il settore delle traduzioni. Una successiva istruzione, 26 settembre 64, promulgata dalla Congregazione dei Riti e dal Consilium, presentava un piano generale dettagliato per l'applicazione della Costituzione in attesa della riforma dei libri liturgici, con indicazioni precise a proposito della lingua volgare. Ad esempio, si stabilì la versione da compiersi sul testo liturgico latino, comprese le pericopi bibliche, pur non escludendo il ricorso al testo originale, e dei numeri 43-44, le parti tanto della messa che dei sacramenti nelle quali si può usare la lingua volgare. Così risultava possibile l'uso della lingua volgare per le letture, i canti interlezionari, i canti processionali e poi dell'ordinario, le acclamazioni, i saluti, le formule di dialogo, mentre per le orazioni, recitate dal sacerdote, sono le cosiddette tre presidenziali, la prima l'orazione colletta, l'altra sulle offerte, l'altra dopo la comunione, che sono composte secondo lo stile classico dell'orazione latina, queste orazioni, veniva concessa la versione, meglio, la facoltà era riservata alla sede apostolica, ma le conferenze episcopali potevano farne richiesta, e così è avvenuto anche per la Chiesa italiana. Infatti poi una lettera del segretario di Stato inviato a nome del Papa Cardinale Lercaro, Presidente del Consiglio, concedeva l'uso della lingua volgare per il prefazio poi, previa decisione delle singole conferenze episcopali. E il prefazio, come vedremo, è la prima parte della preghiera eucaristica. Un'istruzione nel 1967, pubblicata dalla Congregazione dei Riti e dal Consiglio, concedeva alle conferenze episcopali la facoltà di usare la lingua volgare nel canone romano della messa. E questo è stato il grande passo, direi, inatteso. Seguiva il 10 agosto 67 una lettera del segretario del Consiglio nella quale si comunicava direttamente ai presidenti delle conferenze episcopali la concessione della traduzione del canone romano con allegata disposizione circa i criteri da seguire nelle versioni. Al canone romano seguiva la pubblicazione il 25-23 maggio 68 di tre nuove preghiere eucaristiche con le indicazioni relative alla versione e susseguente approvazione. Così cadeva l'ultimo muro del latino nella celebrazione della messa e l'ingresso pieno della lingua volgare. Parallelamente alle tappe della concessione da parte degli organismi centrali della Chiesa, avveniva in Italia il lavoro a tappe forzate della traduzione dei rispettivi libri liturgici. Nel 1965 usciva il messale festivo latino italiano con il testo latino del prefazio e del canone, mentre tutti gli altri formulari, letture bibliche comprese, erano nella doppia lingua. Nel 1966 usciva totalmente in lingua italiana il rituale dei sacramenti, dei sacramentali, ma secondo il testo preconciliare. Nei tre anni successivi si procedeva in italiano alla versione del prefazio, del canone romano, 68, e infine delle tre nuove preghiere eucaristiche. Con il 1969 inizia la seconda fase delle traduzioni, cioè dei nuovi libri liturgici predisposti dal Consilium. La versione sarà compiuta sulla edizione tipica latina man mano che veniva pubblicata dalla Poliglotta Vaticana. Dal 1969 ad oggi si contano complessivamente 26 nuovi libri liturgici tradotti da latino, 7 libri relativi ai 7 sacramenti, 8 libri per i vari libri per i vari ordini sacramentali, 6 volumi del lezionario della messa, 4 della liturgia delle ore e più il messale. La maggior parte di questi libri risale agli anni 69-76. L'ultimo in ordine di tempo è il cosiddetto benedizionale o libro delle benedizioni uscito nel gennaio scorso. Il messale romano del 1973 sarà oggetto specifico di questa relazione. In edizione completa e nella lingua italiana era stato preceduto dal fascicolo rito della messa con l'istruzione annessa, in lingua italiana con a fianco il testo latino. La terza fase delle traduzioni, consistente nel lavoro di adattamento e di creatività, inizia con la seconda edizione del Messale Romano del 1983, dotata di formule di ricambio, 17 nuovi prefazzi, circa 150 nuove orazioni collette domenicali, 25 feriali e 10 mariane. Questo passaggio, per l'ampiezza e per la rapidità, rappresenta una svolta storica nella vita della Chiesa, una novità assoluta almeno per quanto concerne la versione da latino in altre lingue. Infatti si conosce il passaggio dal greco al latino nella Chiesa di Roma. Il latino, come è noto, fu la lingua originale della Chiesa di Africa, mentre a Roma si usava il greco. Il passaggio dal greco al latino avvenne dopo la metà del IV secolo, concluso probabilmente al tempo di Papa Damaso dell'anno 384. Così per tutto il primo millennio e nel secondo millennio fino al secolo XVI il latino rimarrà la lingua liturgica, oltre che la lingua colta di tutto l'Occidente. Per il primo millennio l'unico caso notissimo è quello a metà del IX secolo dei santi Cirillo e Metodio, evangelizzatori della Moravia, che tradussero la liturgia romana in lingua slava con la creazione dell'alfabeto detto glagolitico. E assieme alla liturgia tradussero ovviamente anche la Bibbia. Un'iniziativa questa che, nonostante i contrasti e le calunnie perpetuatesi fino al Concilio di Trento, ha resistito fino ad oggi sulla costa dalmata e altrove. Altri tentativi meno noti di traduzione della liturgia latina nelle lingue orientali, con intenti purtroppo di proselitismo, si sono verificati nei secoli XVII e XVIII e soprattutto per i paesi di missione, dalla richiesta del francescano Giovanni da Montecorvino nel 1303 in favore dei mongoli, a quello dei gesuiti nel secolo XVII per la traduzione del messale romano in lingua cinese, con risultato purtroppo negativo. Il problema della lingua volgare in sostituzione del latino fu sollevato per la prima volta nel secolo XVI a causa della maturità della lingua nazionale, delle lingue nazionali in Europa, perché nei secoli precedenti la lingua volgare era ritenuta, veramente volgare, scusate il termine, inadatta al culto, anzi meno degna del latino, e sia dall'istanza di comprensione di fondo del popolo cristiano. La questione pastorale fu trasformata dalla riforma protestante in rivendicazione dottrinale per l'efficacia e la validità del culto, quindi non era soltanto un'esigenza pastorale Lutero, ma è un'esigenza dottrinale. Il popolo cristiano non può esprimere la sua fede, non può comprendere la parola di Dio, quindi il culto di fatto è inefficace e non vero. Il Concilio di Trento nella sessione 22esima respinse la richiesta, ma prescriveva ai pastori di spiegare ciò che veniva letto nella messa e prevedeva spiegazioni in lingua volgare nella celebrazione dei sacramenti. Nascono poi i rituali bilingui, nonostante l'irrigidimento per la messa, come ad esempio la condanna della traduzione del messale per i fedeli con Alessandro VII nel 1661. Rifioriranno ufficialmente approvati negli anni dopo la seconda guerra mondiale i cosiddetti messalini per i fedeli e i rituali bilingui. Un rituale bilingue in lingua italiana per la diocesi di Lugano risale al 1955. Pochi anni dopo, quasi in attesa, la decisione del Concilio. Questo è il quadro che precede il nostro argomento. E passo subito, seconda parte, alla versione dei testi liturgici in lingua italiana. Al problema della estensione della lingua volgare italiana nella liturgia, che ha interessato i vertici della Chiesa e delle singole chiese, ha fatto seguito quello ben più complesso della traduzione, per le difficoltà inerenti al lavoro, ai criteri, al gruppo dei traduttori, alla reazione del popolo cristiano. È stata avvertita subito e da tutti la novità assoluta di una simile operazione. Nonostante le traduzioni di testi liturgici nelle lingue occidentali, già note e presenti fino dal secolo XIII, in particolare negli ultimi secoli con i messalini per i fedeli e più recentemente con i rituali bilingui, ci si accorse che l'esperienza era insufficiente perché tutte le traduzioni erano state preparate con intento didattico, non solo a titolo più o meno personale, ma per essere lette privatamente o per essere usate in piccoli gruppi o assemblee ben determinate. Ora si trattava di affrontare direttamente quei testi di uso comune, quelli cioè della Messa, e di offrirli alle assemblee liturgiche così variamente composite, nel momento privilegiato della loro preghiera, quale espressione propria e viva della loro fede. Nessuna esperienza è venuta a sostenere il progetto per la cui esecuzione si richiedeva peraltro grande tempestività. Per contro, la stessa autorità ecclesiastica, in primo luogo l'organismo incaricato di vigilare sul nuovo percorso e operato, non fu in grado di dare fin dall'inizio indicazioni precise perché la versione rispondesse alla sua finalità. La metodologia si organizzerà a seguito dei primi esperimenti e di un confronto a livello internazionale con un congresso apposito, e questi sono gli atti del congresso, e infine con un documento ben articolato, su cui ritornerò, cosicché in occasione dell'edizione tipica latina del Messale Romano restaurato secondo il Concilio nel 1270, la traduzione potrà contare su un metodo comune e collaudato e autorevole. Rimanendo sempre entro l'ambito italiano e avendo come punto di riferimento il Messale, traccerò una breve cronistoria sia del lavoro di traduzione, sia dei criteri seguiti, per giungere infine ad una valutazione complessiva con qualche semplificazione. Un'analisi che prescinda dal cammino percorso, dalle singole tappe, dalle difficoltà interne, come dai condizionamenti esterni, mi sembrerebbe poco rispettosa della realtà, incapace di comprendere le varie anomalie, le varie scelte e di dare le risposte più adeguate. Quindi è impossibile fare un'analisi senza tener conto di questo contesto. Seguirò perciò le tappe che corrispondono alle tre edizioni del Messale Romano, la prima del 1963, la seconda del 1973, no, la prima del 65, scusate, la terza del 1983. L'edizione del Messale, l'edizione del Messale festivo latino-italiano, entrato in vigore il 7 marzo 65, aveva un carattere di provvisorietà perché utilizzava il testo del Messale tridentino, con alcune modifiche risalenti al 62, in attesa della revisione secondo le norme del Vaticano II. Perciò si ricorse, data l'urgenza del lavoro, si pensi che le decisioni dell'Episcopato italiano risalgano al 1 aprile del 64, ulteriormente precisate nell'Assemblea Episcopale del 19 novembre del 64, comunicate il 21 dicembre 64, e il Messale entrava in vigore il 7 marzo del 65. Quindi si ricorse per le letture bibliche al lezionario già in uso fino al 1960 nelle diocesi di Bologna, che era veramente fatto con criteri eccellenti, che non si è stato un grande esempio è rimasto in biblioteca. Per le orazioni ad una versione privata, ma compilata con requisiti di uso pubblico liturgico, ugualmente per i canti processionali e interlezionari, mentre per le parti dell'ordinario, insisterò su questo, cioè i saluti, le risposte, le acclamazioni, le preghiere come gloria, credo, eccetera, si provvide direttamente assegnando il compito sotto la direzione della Commissione Episcopale per Liturgia ad un gruppo redazionale di esperti in varie discipline. L'ordinario della messa, unico elemento del messale rimasto quasi immutato fino ad oggi, noi usiamo quindi questo testo preparato nel 64, è indubbiamente il testo più delicato, poiché di uso quotidiano e non solo festivo, e familiare a tutti, destinato tanto alla recitazione che al canto, all'acclamazione e al dialogo, esposto al logorio appunto dell'uso e alla verifica più facile, col pericolo di cadere quindi nel monotono e anche nel banale. Per questo il lavoro portato avanti da 9 esperti partì da un testo base inviato ad un numero più esteso. La redazione risultante fu discussa minuziosamente nei giorni 28-29 luglio del 1964 a Saronno, quindi sottoposto al parere di 2 letterati. Il testo completato anche dalla versione del dialogo del santo, sebbene non ancora permessi, passò all'esame della Commissione Episcopale, che vi apportò alcune modifiche, come al solito non concordate con gli esperti, tra cui l'infelice, la messa è finita, andata in pace. L'Assemblea Episcopale, il 19 novembre dello stesso anno, ne dava l'approvazione definitiva e il giorno seguente il Consiglio emanava il decreto di conferma. Nonostante un itinerario molto rapido, senza concedere tempo ad una riflessione più meditata, ad una collaborazione più ampia e alla pur minima sperimentazione, la versione del testo si ispirò ad alcuni criteri che presentati al Congresso internazionale svoltosi a Roma nei giorni 9-11 novembre 65, e ebbi io l'onore di presentare questa relazione, risultarono analoghi a quelli seguiti dagli esperti delle altre nazioni. I criteri possono così sintetizzarti: fedeltà al testo latino liturgico, anche quando poteva essere scavalcato, come il passo della Vulgata, pax hominibus bone voluntatis, oppure qui tollite peccata mundi, secondo la proposta degli esperti, in linea con l'istruzione del 64, ma non accolta dalla Commissione Episcopale. Proprietà e chiarezza di linguaggio. Mantenimento di alcune espressioni di spiccato contenuto biblico e di valore tradizionale, come Amen, Alleluia, Osanna e con il tuo spirito, non così invece il Kyrie eleison e Deus Sabaoth, che furono tradotti, anche se poi c'era una corrente contraria. Rispetto di termini tecnici e con preciso significato dottrinale, per esempio unigenito, ma in luogo di consostanziale, difficile anche a pronunziarsi, fu preferito della stessa sostanza del Padre. E poi credo la Chiesa anziché nella Chiesa. E una certa forma ritmica per facilitare il canto. Rispetto al testo degli esperti, quello ufficiale apparso nel messale conteneva vari ritocchi, ripeto, non concordati, come Signore pietà anziché abbi pietà, che costituisce una difficoltà per il ritmo, per il canto. Giustamente i musicisti avevano protestato: non potete dire Signore pietà, abbiamo bisogno quindi anche di un certo ritmo. Questo vi dice le complicazioni che sono avvenute durante il percorso, quindi la critica è molto facile, ma non si sa chi colpire. Fu pure crocifisso anziché fu crocifisso, e poi è stato cambiato di nuovo, la messa finita, l'ho già detto. Gli esperti avevano proposto la revisione delle due domande del Padre Nostro, rimetti come noi li rimettiamo e non incidurre in tentazione, non accolta dalla Commissione Episcopale, e anche questa è l'unica traduzione del Padre Nostro italiana che non ha tenuto conto di quello che è avvenuto in altre nazioni. Dalla bontà della traduzione dell'ordinario della messa, fu detta al citato congresso, sarà giudicata l'utilità della lingua volgare nella messa. Trattandosi di un testo comune a tutta la Chiesa, è auspicabile che si giunga ad un'interpretazione uniforme e si evitino al massimo le interpretazioni contrastanti, anzi, si giunga ad una stessa interpretazione delle formule più importanti e più discusse. Il congresso non aveva lo scopo di concordare un testo comune, quanto piuttosto di mettere a confronto i problemi emersi nelle varie aree linguistiche e di ricercare alcuni criteri fondamentali per una versione che sapesse conciliare due poli o termini, il terminus a quo e il terminus ad quem, il testo liturgico e il testo tradotto, la fedeltà al testo latino e la finalità pastorale della traduzione. I due poli furono al centro delle relazioni, ma i risultati del confronto vennero raccolti 3 anni dopo in un documento che possiamo considerarlo, dirò fra poco, la Magna Carta delle traduzioni liturgiche. La versione del prefazio, cioè della prima unità letteraria della prece eucaristica, che si apre con il dialogo tra sacerdote e assemblea e termina con l'acclamazione del santo, fu messa in cantiere da un piccolo gruppo di esperti sotto la vigile guida del comitato episcopale, eccetera, eccetera, e ottenne l'approvazione il 7 ottobre, eccetera. Il testo dei prefazi, con il messale del 73 saliranno ad un'ottantina, anche se uniforme nell'inizio e nella conclusione, era ritenuto uno dei più complessi per la varietà di contenuto e di composizione, per la forma stilistica e il tono ieratico, per un proprio ordinamento ritmico. Perciò la traduzione impegnò direttamente assieme agli esperti il comitato episcopale, che se ne assunse la esplicita paternità. Era il primo saggio di traduzione della preghiera eucaristica, il testo principe della liturgia, che prese l'avvio con una bozza a carattere privato nell'aprile del 67, prima ancora della decisione durante l'estate della conferenza episcopale italiana, con 215 placet su 212 votanti. Nessun testo liturgico ha conosciuto un cammino così lungo, più tortuoso e laborioso del nostro. Ben 5 redazioni, 2 consultazioni dell'episcopato, singolo, 10 mesi di attento esame a tutti i livelli di esperti, di vescovi, del Consiglio, della Congregazione per la Dottrina della Fede e dello stesso Paolo VI, approvato dal Consiglio il 13 gennaio 68, entrava in vigore il 24 marzo dello stesso anno. A questa procedura macchinosa, la consultazione del testo, faccio la parte, estesa a tutti i vescovi che inviarono una marea di osservazioni, fecero naufragare il testo costringendo ad una nuova redazione. Vanno aggiunte poi le ferree disposizioni impartite dal Cardinale Lercaro di approntare una traduzione, virgolette, letterale, integrale. Bisogna prendere i testi così come sono, senza amputarli né semplificarli in alcun modo. Gli esperti accettino di buon grado queste norme la cui applicazione è necessaria. È facile indovinare i criteri seguiti, una fedeltà assoluta al testo latino, ma non sempre, e dove si è staccato naturalmente ha sbagliato strada. Una preoccupazione di interpretare il latino sia in funzione catechetica, sia in vista della sua proclamazione, uno sforzo di chiarificazione dei passi più oscuri e di collegamento delle varie formule, una ricerca sincera di offrire un testo accessibile e corretto. Tra il testo presentato alla CEI e quello definitivo, si registrano ancora varie modifiche non concordate. Tra queste, in negativo, va segnalato il ritocco maldestro di sangue per la nuova alleanza, anziché sangue della nuova ed eterna alleanza. Infine, sempre nel 68, 3 nuove preghiere eucaristiche, appartenenti di per sé al nuovo messale, ma pubblicate con possibilità di un uso immediato. Il primo abbozzo di traduzione, eccetera, eccetera, ecco, fu predisposto questo testo, questa traduzione, e con un criterio, si diceva, di fedeltà di massima, cioè più letteraria che letterale, una via nuova, sgombra di remore e di insidie, che però poteva prestare il fianco anche a riserve e a qualche rischio, ma che valeva la pena imboccare, se non altro per uscire dalle strette del servilismo al latino per aprire un linguaggio liturgico italiano. Il testo, nonostante la proposta di una fase sperimentale, non accolta, come sempre, a differenza della zona italiana della Svizzera, fu invece inviato a tutti i vescovi per la consultazione. La conseguenza fu rifiuto per l'eccessiva libertà rispetto al testo latino e la richiesta di una nuova redazione più aderente e più completa. Così gli esperti si accinsero a una nuova rielaborazione, ritornando ai vecchi criteri di assoluta fedeltà. Di nuovo consultazione dell'Episcopato, spoglio delle osservazioni, revisione da parte degli esperti, il testo risultante inviato ai Vescovi con la richiesta di placet e non placet. Nel gennaio del 69 si concludeva il tormentato iter dell'elaborazione e si aprivano le formalità per l'uso liturgico, un procedimento quasi incredibile che dispensa da ogni commento. e da ogni giudizio sui presunti criteri, vista la confluenza, se non la sovrapposizione, dell'autorità su quella della competenza tecnica. Prima di concludere questa prima parte, questa prima tappa, ma sì, però mi avvicino abbastanza rapidamente alla conclusione, del Messale italiano, è doveroso accennare all'istruzione circa la traduzione dei testi liturgici per la celebrazione con il popolo. Questo documento, che è frutto della recente esperienza e documento guida per il futuro lavoro sui nuovi liturgici. Anzi, in primo tempo avevo pensato di fare una relazione partendo da questo documento, ma come dicevo sarebbe stata una costruzione su una storia, su una base che purtroppo non esiste, non siamo partiti da questo documento e questo è stato il punto di arrivo. Comunque, suddiviso in tre parti, principi generali sul contenuto, il destinatario e il modo di comunicazione del testo liturgico con l'esame di alcuni casi particolari e con alcune norme per le commissioni di traduzione, il documento precisa la peculiarità della traduzione liturgica suggerita dallo stesso titolo, per la celebrazione con il popolo. Questo è, direi, è la finalità della traduzione. Perché questi testi siano usati nella celebrazione con il popolo, per un uso liturgico a pieno titolo, quindi finalizzata alla, diciamo così, comprensione e partecipazione dei fedeli. Sottolinea lo stretto rapporto che intercorre tra il testo e l'azione rituale, e anche questo è un altro condizionamento. Il testo è legato strettamente al rito, in alcuni casi è inscindibile, quindi non posso tradurre prescindendo dal suo uso immediato e dalla interpretazione che può essere data anche dagli utenti. E poi suggerisce diversità di criteri a seconda dei vari testi, cioè stretta fedeltà al brano biblico, ampia libertà di rielaborazione per quello di composizione umana, cioè per le orazioni. Le orazioni sono state tradotte, in base a questo documento, dopo una rielaborazione, quindi non c'è nessuna traduzione fedele delle orazioni del Messale. E quanto è stato scritto in qualche settimanale, e anche in un libro pubblicato, che porta il titolo Messale Romano, in cui si accusano i traduttori di avere tradotto liberamente, di non essere stati fedeli a delle parole, questa è un'accusa infondata, perché la traduzione, alla quale io in questo caso non ho partecipato, però doveva essere ispirata a questo criterio di rielaborazione, non traduzione letterale, discutibile o non discutibile, questo è dato di fatto. A questa istruzione, alla quale andrebbe riservato, dicevo, un'attenta analisi, per il suo carattere di magna carta delle traduzioni liturgiche, si è ispirata l'edizione italiana del Messale Romano del 73, sono la seconda tappa, che tuttavia ha salvaguardato intatto, ripeto, il testo precedente dell'ordinario e delle preci eucaristiche, salvo lievi modifiche. La versione italiana del Messale del 73, quella che è ancora in uso, è stata compiuta sull'edizione tipica latina, restaurata secondo le disposizioni del Concilio Vaticano II, promulgata da Paolo VI nel 70. Siamo quindi in piena area conciliare. Il gruppo dei traduttori, ridotto di numero, tre sole persone, quindi il gruppo precedente non esisteva più, quindi si è passati a un altro gruppo, comunque, e praticamente rinnovata, ha portato avanti il lavoro in due tempi, in una prima fase pubblicando una versione provvisoria ad uso facoltativo e poi riorganizzando e completando l'intero materiale pubblicato poi con il titolo Messale Romano, il 19 marzo 1973. Ha giocato a favore del gruppo, oltre la sua omogeneità, la maggior libertà concessa dalla citata istruzione, evitando in tal modo molte interferenze strane. Un criterio puntiglioso, ma anche attendibile, che ha permesso di compiere un salto di qualità, è stato quello di una rielaborazione e riformulazione delle orazioni presidenziali, le cosiddette tre orazioni del prete, ben diverse da quelle precedenti, e che a confronto di altri messali, io qui non posso fare questo confronto, è già stato fatto in qualche rivista, rivelano il rigore e anche l'originalità. Quindi direi quasi che è il settore più avanti, forse, che si può considerare di migliore riuscita, anche se è stato qui l'oggetto di maggior critica, quindi molte volte si sbagliano i bersagli. Un secondo criterio è stato quello della verità delle singole formule, ad esempio una Orazione sulle offerte, strutturata come una colletta, è stata riportata al modulo dell'orazione offertoriale. I traduttori hanno attinto poi dall'ecclesiologia conciliare ed hanno esplicitato talora il carattere pneumatologico, cioè richiamo dello Spirito Santo, contribuendo così a rendere più ricco e più vivo il testo italiano. Nell'insieme, scrive un testimone vivente, si può quindi parlare di una duplice attenzione strutturale e teologica, oltre a quella linguistica, al fine di versare in anfore italiche il vino nuovo del Concilio. La novità maggiore del Messale del 73 è la separazione delle letture bibliche collocate nel libro del lezionario, ben 6 volumi in grosso formato, con l'utilizzazione del testo italiano della Bibbia curato dalla stessa Conferenza Episcopale Italiana. Ma non per questo il lavoro della traduzione del Messale è stato alleggerito quando si pensa all'imponente numero delle orazioni dei prefazi. Il gruppo ha operato qualche modifica non sempre indovinata nei testi del prefazio e delle preciocaristiche sulle quali ritornerò. A questa tappa appartengono anche le traduzioni di quasi tutti i libri liturgici, da Liturgia delle Ore, 4 volumi, ai Sacramenti, sacramentali secondo i criteri di stretta fedeltà al latino. E siamo alla terza tappa, costituita dalla versione italiana dei testi liturgici della seconda edizione del Messale del 1983. L'edizione rappresenta una svolta, e dico sempre storica, perché nella traduzione in lingua italiana, perché si ha il superamento di una versione dal latino con la nascita, se così si può dire, di una lingua liturgica propria, cioè con la creazione di nuovi testi liturgici pensati e formulati nella lingua italiana. Il lavoro fu messo in cantiere con un progetto di massima nel 1976 dal neocostituito Ufficio Liturgico Nazionale della CEI ed è stato portato avanti per vari anni da una ristretta commissione di esperti, 5 per la verità, di cui soltanto uno dalla vecchia e dalla precedente equipe, con la collaborazione di altri esperti. Esterni e collaboratori. Oltre ad una ripulitura delle orazioni presidenziali, 2 sono le novità maggiori. La prima consiste in una serie di formule di ricambio per gli interventi del sacerdote nell'ordinario, saluti, invocazioni, penitenziali, munizioni, eccetera, essendo stata respinta la proposta di rivedere o di sostituire i testi precedenti, alcuni ormai scadenti e necessitanti una revisione. L'aggiunta poi di testi di ricambio, un numero piuttosto rilevante e vario, ha consentito di imprimere un nuovo stile, di aprire spazi, di arricchire il contenuto teologico della celebrazione. La seconda novità, che ha superato le attese e per la sua approvazione il Messale è stato in letargo per vari anni, è la serie di orazioni collette per tutte le domeniche e le solennità, ispirate ai temi biblici delle letture secondo il ciclo triennale ABC del lezionario, un totale di circa 160 orazioni. Si aggiungono poi 10 collette per il comune della Beata Vergine Maria e 34 collette per le ferie del tempo ordinario, con motivi tipici della spiritualità contemporanea, e ancora ben 17 prefazi distribuiti a seconda dei tempi, delle feste, dei santi e della celebrazione dei sacramenti. Gran parte delle nuove composizioni si trova collocata in appendice al Messale, ma la strada aperta ha permesso di considerare quasi alle spalle la stretta dipendenza del testo liturgico latino per una nuova stagione in cui la traduzione lascia il posto alla nuova composizione in lingua viva. E sono alla parte conclusiva. Valutazioni e proposte. La cronistoria delle traduzioni dei testi liturgici in lingua italiana nel contesto del passaggio post-conciliare, rapido e un po' tumultuoso, dal latino alle lingue moderne, dispensa da ogni ulteriore commento dopo quelli che ho già avanzato. Possiamo però raccogliere una valutazione complessiva, unita ad alcune proposte possibili prospettive. Primo, le tappe del lavoro di traduzione, contrassegnate dalle 3 edizioni del Messale in lingua italiana, 1965, 1973, 1983, manifestano una discontinuità, voglio evitare ogni aggettivo, una discontinuità nel gruppo dei traduttori e nei criteri di traduzione, e una serie di condizionamenti derivati dalla rapidità del lavoro, con scadenze capestro, dalla mancata sperimentazione, dalle interferenze dell'autorità episcopale. I vari passaggi dei testi tradotti, fino alla loro pubblicazione, sono avvenuti quasi sempre senza gli elementi responsabili di raccordo. Cioè il gruppo di traduttori è rimasto bloccato e non ha potuto seguire il lavoro fino al termine, cosicché ci sono delle contraddizioni a volte vistose e scandalose. Il panorama non è affatto consolante o comunque non spicca per eccessiva serietà. Eppure, ad opera conclusa, uno sguardo seppur critico del messale è meno negativo di quanto si possa pensare, purché venga letto a strati a seconda delle varie stagioni di traduzione. Il settore più valido e più omogeneo nella stessa forma stilistica, nel quale del resto la fedeltà al latino non costituisce più un obbligo né un problema, è rappresentato dalla cosiddetta eucologia minore, cioè dal vasto repertorio delle orazioni presidenziali. L'altro gruppo, legato direttamente al testo biblico, pur nella rielaborazione di qualche espressione, è quello dei canti o antifone processionali, all'introito e alla comunione. Anche a questo proposito non si registrano preoccupazioni sia per il loro uso limitato e sia per la possibilità di sostituzione con altri canti. Per l'ordinario, invece, la situazione è assai diversa. Anche se tradotto per primo in ordine di tempo e soggetto al logorio dell'uso, dopo l'aggiunta di alcune formule di ricambio, sembra complessivamente accettabile, anche se bisognoso di qualche ritocco. Invece, per le preghiere eucaristiche, prefazzi compresi, l'impressione, anzi il giudizio, a mio modo di vedere, è meno positivo. A seguito dell'istruzione del 69 si pensa che una revisione accurata e coraggiosa sia addirittura indilazionabile. Per questa operazione, che mi permetto di semplificare con qualche riferimento, è necessario procedere alla costituzione di un gruppo o di una commissione non troppo numerosa né troppo ridotta, composta di esperti di varie discipline connesse, a cui affidare il compito di una rilettura e revisione dell'intero materiale, una commissione possibilmente stabile a cui far pervenire eventuali proposte che non disdegni la consultazione e la sperimentazione. Tra le possibili modifiche dell'ordinario, la prima concerne la frase del «Gloria a Dio, pace agli uomini di buona volontà», da cambiare in pace agli uomini che Dio ama, proprio in coerenza con il testo ufficiale della Bibbia della CEI, che viene letto, tra l'altro, nelle pagine del Vangelo, nel tempo di Natale e nelle antifone della liturgia delle ore. Quindi nel medesimo giorno, nella medesima celebrazione di questa frase, noi abbiamo due tradizioni, quella biblica a cui si dovrebbe essere fedeli e quella liturgica che è stata fatta, che non è stata cambiata per volere dell'autorità. Quindi non è serio continuare con questo criterio. Viene da pensare anche al Padre Nostro circa la domanda «Non ci dura in tentazione» per una chiarificazione riscontrabile in altre lingue europee. E poi l'intesa per una traduzione comune interconfessionale sarebbe l'occasione più propizia. Lasciamo stare l'invito finale alla messa finita, ripeto, scomparso in tutte le nazioni. L'unica nazione che per prima che accettò questa formula, che poi dopo pochi mesi la cancellò, è stata l'Argentina. Dalle leggi che hanno fatto la rivista Notizie non c'è nessuna nazione che ha conservato questa traduzione così infelice. Andrebbe eliminato. D'altra parte esistono altri formulari di ricambio. Per le preci eucaristiche la questione si presenta più delicata, ma anche la più urgente. Accenna due testi, il racconto della cena o consacrazione e l'anamnesi che segue. Nel primo racconto sono da censurare tre elementi. Primo, la soppressione della duplice preposizione latina enim e quella di raccordo con l'anamnesi unde. È stata una scelta ingiustificata e scorretta, perché dettata da una mens teologica di attualizzazione del testo che cozza contro la forma letterale del racconto indirizzato al padre, e quindi di infedeltà al testo latino, la cui finalità era un criterio tassativamente prescritto. Lo stesso si dica del mutamento di sangue dell'alleanza in sangue per la nuova alleanza, che ignora la tipica frase biblica dell'alleanza sinaitica, dimenticando che nel sangue versato ora si fa l'alleanza, non in futuro, come può suggerire per la nuova alleanza. Se questo mutamento è da addebitarsi alla commissione episcopale, la frase «questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi» fu una scelta deliberata del gruppo dei traduttori, motivata dal desiderio di evitare che, dato per voi, venisse inteso per la comunione, ma giudicando con il senno del poi e tenendo conto del valore teologico e della profonda risonanza biblica del dato per i per, come della traduzione comune nelle altre lingue, bisogna riconoscere che si impone una correzione più fedele al testo biblico, senza forzature interpretative, anche se il testo italiano non può essere tacciato di infedeltà al significato di fondo della frase originale. Invece, una censura severissima va riservata alla parola di inizio dell'anamnesi della prima prece eucaristica. Per questo sacrificio celebriamo il memoriale, che vorrebbe tradurre il latino unde et memores. L'unde è stato tradotto per questo sacrificio. Qui siamo di fronte a uno svarione teologico e letterario. Il testo compare nella terza edizione del Messale 1973 e sostituisce il precedente «Perciò noi celebriamo», in raccordo all'anamnesi. Attribuire al rito oggettivo del mandato il termine sacrificio, facendo seguire il concetto di sacrificio che in esso si celebra il memoriale, cioè si rende presente quello della croce, conduce alla sovrapposizione di due concetti di sacrifici, quindi uno svarione incredibile e incomprensibile. Sempre in tema di revisione, ma questo non voglio accennare, da notare che alcuni testi di uso comune nel rito romano, nel rito ambrosiano, sono stati tradotti in forma diversa. Questo contraddice a una disposizione ben severa del 15 ottobre del 64, con comprensibili difficoltà pastorali. Provengo da Milano, quindi ho fatto questo accenno, ecco. Come la concelebrazione eucaristica, la traduzione è usata nel rito ambrosiano, pur essendo il testo identico, è diversa da quello italiano corrente. E, a dire il vero, la traduzione ambrosiana non è certamente migliore di quella romana. Concludo. La nuova ecologia, presente nella terza edizione del 75, possibile, 83, ha aperto una nuova strada. Anzi, l'ultima edizione del Messale, una nuova stagione detta, mi scuso, sono già 50 minuti, ma sono alla fine, propriamente dell'adattamento della liturgia alle singole chiese e culture. Siamo giunti al capolinea della traduzione dal latino, è un dato di cui si deve tener conto. Il latino rimane nella liturgia di rito latino, ma praticamente rimane soltanto nel libro, nell'edizione tipica. Le singole chiese hanno la possibilità, e nel caso del rituale il dovere, di passare alla fase di pensare e di dire la loro preghiera nella lingua loro propria. Questo darà luogo ormai ad una nuova lingua, quella liturgica, destinata a crescere autonomamente, sganciata dal latino. Si potrà forse deplorare questa svolta, non minore di quella delle traduzioni, ma è una realtà di fronte alla quale non ci si può trarre indietro. Questo non significa che il problema della traduzione debba essere accantonato, sia perché la lingua è in continua evoluzione e domanda che i testi tradotti, a causa dell'uso e del tempo, siano sottoposti ad eventuali correzioni, sia che non ci si chiuda a nuove istanze, quali quelle del cosiddetto linguaggio inclusivo. Il testo liturgico latino rivela una forte mentalità maschilista, che vuole quindi una esplicitazione di uomo-donna, fratello e sorella, ma anche una più ampia e più ricca espressione dell'idea di Dio, non sempre e del tutto identificabile nel termine di padre. Questo problema non nasce nell'ambiente italiano, ma nasce in quello anglosassone e anche in quello stesso tedesco. Se, come ha detto Paolo VI, la Chiesa ha dovuto rinunciare o arrivare alla rinuncia del latino per dare la voce direttamente al popolo cristiano, per la maggior parte dei testi liturgici il latino resta ancora la lingua di origine insieme ancora irrinunciabile, perché oltre ad alimentare la maggior parte delle nostre preghiere, ha dato o ci ha arricchito di un incalcolabile patrimonio artistico e musicale. Ringraziamo molto il professor Falsini per la sua ampia relazione, nella quale con molta efficacia ci ha fatto entrare nella officina conciliare dove sono state elaborate, discusse e alla fine definite le disposizioni conciliari che hanno segnato la caduta del muro del Latino, come ha detto, e l'apertura alle traduzioni in lingue, nelle lingue nazionali. Lo ringraziamo per la cronistoria che poi ha fatto della, si può dire, molto sofferta traduzione in lingua italiana con il Messale Romano, le tre edizioni del Messale Romano, e devo dire anche nella ultima parte delle valutazioni e proposte ha posto problemi molto seri che impongono una revisione critica delle traduzioni. Quindi penso che ci saranno senz'altro nella seconda parte ragioni per chiedere di nuovo chiarimenti o fare interventi. Sì, può restare qui.